questo di quel soio che rapimmi sorte errata costa tutto il mio cordoglio, il mio cordoglio. Errata, che rapimmi sorte errata, costa